La registrazione dell'incontro con Francesco Codello, direttore didattico a Treviso, autore fra l'altro del libro Vaso, Creta o Fiore, né plasmare, né riempire ma educare, edito dalle edizioni La Baronata. L'incontro, che si è tenuto martedì 25 aprile al liceo di Lugano 1, aveva come titolo Altre concezioni della scuola e dell'educazione, che scuola viviamo, che scuola pensiamo, a cura di Progetto Radio Scatola Nera. Bene, grazie. Intanto buongiorno a tutti e vi ringrazio di avermi dato questa opportunità di incontrarmi con voi, che spero che questo incontro avvenga. Lo spero veramente perché mi piacerebbe molto poter interloquire, ecco, io con voi. E quindi mano a mano che io parlo, se voi mi volete fermare, se volete chiedere delle cose, interrompetemi pure, non mi dà nessun fastidio. Anche perché io preferirei proprio che ci fosse, se fosse possibile, un dialogo, così io me ne ritorno questa sera a Treviso avendo sicuramente imparato qualche cosa da voi, che potete sicuramente darmi delle suggestioni, anche facendomi delle domande, mettere in discussione le cose che dico, per me è sempre utile, ecco, perché non ho delle verità né da dirvi, né mi interessa eventualmente pensassi di averne qualcuna, comunicarvele. Preferisco così raccontarvi un po' di cose sicuramente un po' diverse da quelle che viviamo, non solo che vivete voi, ma che vivo anch'io nel mio lavoro all'interno delle scuole nelle quali appunto lavoro e vivo gran parte della mia giornata, come voi del resto. La prima cosa che volevo così buttare lì, dirvi, è questa. In realtà noi siamo abituati a pensare che le cose che facciamo, che viviamo, attraverso le quali facciamo delle esperienze, siano delle cose che sono sempre esistite, che siano delle cose che siano tra virgolette normali, no? Non pensiamo al significato delle cose che stiamo facendo, delle esperienze che stiamo vivendo, perché ci pensiamo, le viviamo, a volte ne soffriamo, a volte ne gioiamo, non importa, ma le diamo per dei fatti ineliminabili o che siano sempre esistiti. Bene, non è proprio così. La scuola in effetti non è sempre esistita. La scuola come noi la pensiamo, come noi la viviamo oggi, la scuola nel senso moderno dal termine, è una cosa che non è assolutamente sempre esistita, è una scoperta recente. Possiamo dire che la scuola così come la pensiamo noi ha 400 anni, che non sono niente nei confronti della storia degli esseri umani e del mondo intero. Così come non è sempre esistita l'infanzia, la giovinezza, l'adolescenza, come noi la pensiamo, come di cui oggi ne parliamo, leggiamo nei giornali, nelle riviste, nei libri, gli adolescenti, i preadolescenti, i bambini, le bambine, tutte queste cose qui non sono sempre esistite. Ecco, se voi per esempio prendete, avrete occasione di incrociare nel corso della vostra vita una mostra o entrerete in una chiesa particolare dove sono raccolti dei quadri, o anche uno basta, un dipinto, di epoca medievale, per esempio, intendo anche tardo medievale, cioè fino al 1300, 1400 quasi, ecco, quindi proprio anche alla fine del Medioevo, e che raffigura una scena familiare o un nucleo, o comunque raffigura anche dei bambini, se voi avete la pazienza di guardare un attimo, troverete per esempio che il viso, i lineamenti, la struttura di questi bambini o di queste bambine sono esattamente delle riproduzioni di un adulto fatto in piccolo. Se voi invece oggi prendete un quadro o una fotografia oggi o un dipinto che raffigura oggi l'infanzia, l'adolescenza, eccetera, voi trovate che come in realtà è, come in realtà siamo, no? Voi siete distinti, siete qualcosa di diverso da me, sono più vecchio, o da chi è ancora più vecchio di me. Così in questi dipinti invece del Medioevo voi non trovate nessuna differenza. Se voi guardate proprio la struttura fisica, come sono delineati i lineamenti, gli abiti che sono indossati da questi bambini anche piccoli gli oggetti di cui si attorniano questi bambini piccoli, fino a quell'epoca, non c'erano, non erano distinti da quelli degli adulti, erano tutti dei mignon, dei piccoli adulti in miniatura. Solo poi, vado a Grande Spagna naturalmente, solo poi con l'avvento degli stati nazionali, cioè quando si sono imposti gli stati nazionali nelle varie paesi europei, quindi intorno al 1600, nasce anche la scuola e nasce anche il concetto, perché un concetto è di infanzia, e si comincia a differenziare, ecco, si cominciano a differenziare anche, ripeto, in queste forme espressive che sono delle testimonianze molto interessanti, indispensabili per chiunque voglia fare storia oggi, no? Dopo la lezione che ci hanno dato alcuni maestri di storia, che sono in particolar modo gli annali francesi, questo modo di fare storia studiando la mentalità delle persone, eccetera, scopriamo insomma che questo mondo che noi oggi diamo per scontato, quello dei bambini, delle bambine, quello del, e quindi di ciò che questi bambini o ragazzi e ragazze vivono, in questo caso nostro la scuola, è una cosa quindi assolutamente recente. Questo, se voi capite questo, capite anche che forse la prima cosa da fare importante è quella di avere sempre uno sguardo con questo senso di relatività nei confronti delle cose che ci circondano. Non sono cose che sono sempre esistite così esattamente come sono oggi, come a noi paiono così estremamente indispensabili, senza le quali non potremo vivere. Da questo punto di vista, quindi, anche la scuola, come vi sto dicendo, è una scoperta recente. Ed è una scoperta recente che ha avuto una sua evoluzione storica fino a portarci oggi nei paesi occidentali, qui dove viviamo noi, in Italia, in Svizzera, in Europa, negli Stati Uniti, sono i paesi che hanno un modello sociale, culturale abbastanza simile, ha alcune caratteristiche che sono quelle che voi conoscete e che, con le quali voi vi confrontate ogni giorno nel corso della vostra vita quotidiana di studenti. Bene, allora io, mosso da questa curiosità e da un... tra aver capito che in realtà forse le cose appunto che mi circondavano non erano le cose che erano sempre esistite, che forse potevano essersene anche delle altre, magari più interessanti, più piacevoli per alcuni aspetti, più utili per la mia vita, eccetera, ho cercato, anche se mosso da, naturalmente dal constatare di persona come la scuola, questa scuola che noi frequentiamo, sia una struttura profondamente in crisi che non dia più le risposte giuste dal mio punto di vista alle cose che cerchiamo in un ambiente come questo, e poi se volete vi dirò anche la mia opinione in questo, ho cercato e ho scoperto che in realtà esistono, ci sono nel mondo tantissime esperienze di educazione, di istruzione, chiamiamole scuole, chiamiamole comunità educanti, chiamiamole come volete, come preferite, che avevano delle caratteristiche completamente diverse. E queste scuole nascono spontaneamente dentro una tradizione di pensiero a volte non sempre riconosciuta, che è quella appunto del pensiero libertario nell'educazione, nascono per dare appunto delle risposte diverse ad alcuni fenomeni che si stanno invece esprimendo in maniera forte, fortissima all'interno delle nostre invece scuole. Allora ho cominciato assieme ad un gruppo di insegnanti a cercare di scoprire questa realtà, andandole a vedere alcune di persona, altre leggendovi dei resoconti, delle cronache, a volte degli articoli, difficilmente, anzi quasi mai tradotti in italiano e quindi pochissimo conosciuti in Italia, ma che hanno delle caratteristiche comuni. Quali sono le caratteristiche comuni di queste scuole? Prima un breve cenno sulla loro diffusione. Queste scuole sono esperienze che nascono in contesti culturali, sociali e geografici completamente diversi. voi potete trovarne in Nepal come nello stato di New York, potete trovarlo nel Nuovo Messico come potete trovarlo in Finlandia, potete trovarle in India come potete trovarle in Nuova Zelanda, potete andare in Australia, scoprire che esistono e finire in Israele e in tantissime altre parti del mondo. E ogni anno, da alcuni anni, i ragazzi e le ragazze, gli insegnanti, i genitori che lo desiderano, che partecipano della vita di queste scuole, si incontrano in un posto diverso dal mondo e si confrontano, si scambiano le loro esperienze, si parlano e ricercano soluzioni comuni, se possibile, altrimenti ognuno per la propria strada, ma comunque sì, c'è questo momento convivial culturale, ecco, che è anche un momento di incontro molto bello. Quest'anno l'incontro è avvenuto a Berlino, in Europa, quindi l'anno scorso si era svolto in India, quest'anno 2006 sarà in Australia. E io ho partecipato quest'anno all'incontro di Berlino ed è stata un'esperienza assolutamente straordinaria. C'erano anche due o tre ragazzi svizzeri di un'organizzazione studentesca, adesso però non mi ricordo, però posso casomai darvi delle indicazioni, che hanno partecipato a questo incontro. Bene, ma cosa hanno di strano queste scuole per cui io così oggi posso raccontarvi alcune caratteristiche? Allora, la prima caratteristica fondamentale di queste scuole, e così voi potete già pensarvi a voi, nella vostra scuola qui, questa proprio, è che tutte le decisioni che riguardano la vita della scuola sono prese dall'assemblea generale di tutti quelli che vivono all'interno della scuola. Vale a dire che qualsiasi decisione che riguarda la vita organizzativa della scuola, da quella finanziaria a quella della didattica, a quella della punizione o non punizione, cioè viene presa da un'assemblea e la quale si esprime con dando ad ognuno il diritto di un voto, quindi significa che il direttore, la direttrice della scuola, l'insegnante X, l'insegnante Y, l'insegnante Z, lo studente o l'alunno, se le scuole riguardano ragazzi o ragazze più giovani di voi, anche ho visto di 6 anni, decidono assieme e quindi la decisione è presa a maggioranza. Non c'è qualcuno, cioè, all'interno di queste scuole che ha più potere degli altri, in nessun momento mai. Talvolta si decide a maggioranza, talvolta all'unanimità, talvolta a maggioranze più qualificate, cioè non solo quella semplice del 51%. Dipende dalle scelte della scuola stessa. Per esempio, io ricordo alla Carl Rogers School di Budapest, per dirvi, si procede con decisioni all'unanimità, cioè finché tutti coloro i quali vivono all'interno della scuola non hanno raggiunto un comune parere, quella decisione non viene attuata. Oppure, come nella tutorial school nel Nuovo Messico, c'è una modalità per cui si discute ad oltranza fino ad un certo punto. Poi, se coloro i quali sono rispetto a quella decisione da prendere, la minoranza, cioè in quel momento, decide che va bene lo stesso, nel senso che non è una cosa poi così dirimente, così fondamentale, irrinunciabile, eccetera, si procede e la minoranza si adegua, però è una decisione sempre libera della minoranza. Questo è il primo concetto. E voi capite che questa è una struttura organizzativa completamente diversa dalla nostra. Non credo che nel liceo Cattaneo di Lugano, come così nelle scuole dove vivo io, e questa sia una prassi consolidata, ecco, credo che le decisioni spettino al preside o al direttore della scuola, agli organismi previsti dalle leggi, eccetera, ma Sì, certamente talvolta c'è la partecipazione degli studenti alla formulazione delle decisioni, ma mai su tutte le decisioni e comunque sempre in forma di delega e mai in forma diretta. La seconda caratteristica, le lezioni sono assolutamente facoltative, cioè ognuno può entrare, partecipare alla lezione, non partecipare, non è obbligato mai ad accedere ad una lezione. Anche qui ci sono forme diverse naturalmente, perché io vi sintetizzo temi e caratteristiche che sono, che poi al loro interno hanno delle sfumature diverse, perché come vi ho detto hanno una diffusione queste scuole in giro per il mondo e quindi giustamente rispettano percorsi decisionali, di maturazione, di sviluppo delle persone che vivono, che sono completamente diverse. Ci sono alcune scuole che hanno una parte di frequenza obbligatoria e una parte assolutamente libera, altre completamente libera, altre con percentuali diverse di rapporto tra obbligatorietà e libertà di frequenza. Terza caratteristica, in genere a nessun adulto è permesso, anche nelle scuole dove ci sono ragazzi, bambini e bambine più piccoli, intromettersi se non espressamente richiesto nelle questioni che riguardano gli alunni o gli studenti. Nessun adulto può intromettersi andando a mascherandosi dietro, scusatemi ma ho problemi di voce oggi, dietro la propria specifica adultità, poter interferire nelle questioni che riguardano. Poi laddove ci sono sanzioni da emettere, laddove si decide che ci siano sanzioni, queste sanzioni sono anche queste portate o all'interno dell'assemblea o all'interno di un comitato più ristretto nel quale partecipano tutti i membri della comunità scolastica, quindi naturalmente anche gli studenti o gli alunni. L'altra caratteristica, l'altra quella forse ancora più sconvolgente rispetto alle nostre abitudini, ed è l'ultima che vi dico delle cose principali e generali, è il modo con il quale vengono scelti gli insegnanti che insegnano in quella determinata scuola. Allora, voi sapete che nelle nostre scuole gli insegnanti accedono alla determinata scuola attraverso un concorso, una selezione in qualche maniera che deriva dal titolo, del possedere un titolo di studio e poi di sostenere degli esami, non esami, adesso dipende dai vari sistemi, comunque avendo cioè un determinato curriculum. Bene, anche in queste scuole un insegnante si propone con un proprio curriculum e dice io so fare questo, questo, questo, ho queste competenze, ho queste conoscenze, eccetera, eccetera. Però la decisione se assumere o non assumere un insegnante spetta anche questa al vaglio di questa assemblea, in particolar modo all'opinione espressa in maniera formale degli studenti. E qui potremmo cominciare da qui a mettere alcuni punti di domanda, alcuni momenti riflessivi. Ecco, a me io ricordo, per esempio, che quando sono stato a visitare una di queste scuole nel Devon, che è al sud-ovest dell'Inghilterra, la punta, insomma, prima della Cornovaglia, la punta quella che esce fuori verso l'oceano in Inghilterra, in Bretagna, e ce ne sono due molto belle, una si chiama Park School ed è per i bambini dai 3 ai 10, 11, 12 anni e l'altra dalla stessa età ai 16, 17, 18 anni. In queste due scuole, in questa seconda scuola, in questa Sands School, cioè sulla scuola sulla sabbia, che mi dà l'idea proprio della malleabilità, adattabilità della struttura che dovrebbe avere alle esigenze, alle richieste, alle aspettative e ai bisogni di chi vive all'interno di questa esperienza, questa ricordo che tra i vari insegnanti, che cui naturalmente sono rimasto lì a visitare, a parlare, eccetera, C'era un ragazzo che tedesco che si era proposto da poco tempo come insegnante e l'ho visto fare tenere una lezione, eccetera, eccetera. Quando sono rientrato poi in Italia ho avuto modo di chiamare il direttore di questa scuola che è una delle persone che animano anche questi incontri internazionali, è un fondatore di una di queste scuole, eccetera, più importanti, si chiama David Gribble, e che appunto è un inglese, e gli ho telefonato e gli ho detto: toglimi una curiosità, dico, David, quel ragazzo tedesco che ho visto lì quel giorno, eccetera, eccetera, l'avete poi, è stato assunto dalla scuola? Lui mi ha detto no. E io non avevo, una volta capito il meccanismo, non avevo dubbi che sarebbe andata a finire così. Perché i ragazzi, gli studenti non scelgono mai se messi nelle condizioni di scegliere, come in questo caso. E questo poi l'ho verificato in tante altre esperienze di questo tipo. Insegnanti che non conoscono, non hanno delle conoscenze adeguate, che fanno finta di essere degli amiconi, che fanno magari giocherelloni, ma pretendono che queste persone siano persone non solo oltre che competenti, che abbiano un senso profondo di rispetto nei confronti degli studenti. Dove rispetto non significa negare o far finta che non ci siano delle differenze tra un adulto e un ragazzo, ma riconoscerle, esplicitarle ed accettarle come tali, senza che queste diventino degli strumenti di dominio dell'uno rispetto all'altro. Poi dovete immaginarvi che cosa succederebbe nella vostra scuola se domani mattina voi foste liberi di non frequentare una determinata lezione. Ci state pensando un attimo? Vedo che tanti di voi sorridono, eccetera, cosa dire. Già questo mi fa significare che è un fatto fa. Allora, a quel punto chiaramente ci sono due cose che vanno, secondo me. Io ve le butto là e poi mi piacerebbe sentire molto voi su queste cose, interloquire con voi. Non frequentare la lezione potrebbe voler dire che non ne avete voglia quel determinato giorno. Potrebbe essere un'espressione chiara, esplicita, con il vostro comportamento di valutazione nei confronti dell'insegnante che vi sta di fronte. Perché voi dovete pensare che cosa può pensare, sentire un insegnante che entra in una classe, tiene una lezione e i suoi alunni si alzano ed escono, oppure non sono venuti. È una sfida anche professionale, significa che uno deve continuamente cercare di migliorare le proprie capacità di stimolare la discussione, la ricerca, offrire spunti e dare indicazioni significative e non banali su un percorso disciplinare, eccetera, eccetera. Così come mi piacerebbe che immaginaste che domani mattina qui dentro succede che qualcuno, che so, ruba qualche cosa, viene scoperto chi è, e che a decidere che cosa succede in quel caso foste voi e non so come funzioni qui in questa scuola, un comitato, il preside o chiunque preposto a queste cose. Vale a dire che in queste esperienze scolastiche c'è una dose elevata di libertà. Libertà che però si accompagna ad un altro grande e fondamentale valore, che è quello della responsabilità. Perché ognuno di voi si è chiamato ad esprimere con un suo giudizio una decisione che va ad influenzare qualcun altro che gli sta vicino, più o meno prossimo, va da sé che si assume in quel momento una responsabilità molto grossa. Nessuno di voi farebbe a cuor leggero, forse una volta, due, la prima volta. Di questo sono certo. Uno assumerebbe una decisione senza pensare alle conseguenze di questa decisione che lui assume ha nei confronti di altre persone. In questo modo sicuramente avremmo delle persone che crescono, tutti, adulti o ragazzi, non importa, il processo di crescita non finisce mai, è estremamente significativo. Voi potreste dirmi anche un'altra cosa, potreste anche dirmi: bene, ma queste esperienze possono essere delle isole felici, dei posti dove vanno solo alcuni, dove non è possibile, non sono possibili in questo modello, chiamiamolo così, non è possibile tradurlo in, si creano dei luoghi appartati dal mondo, dove in realtà non si entra mai in contatto con questo mondo. Beh, allora vi racconto un altro aneddoto, proprio vissuto quest'estate scorsa a Berlino, dove in questi convegni, chiamiamoli così, annuali, questi incontri annuali, la formula è questa: chiunque partecipa propone degli argomenti, se ne ha voglia, no, va, assiste e partecipa a quelli degli altri, proposti da altri, nel senso che si mette un grande cartellone e ognuno scrive: oggi dalle 3 alle 4 propongo questo tema di discussione, questo argomento, eccetera, eccetera, dalle 4 alle 5, e uno si sposta, vai, giri, frequenti, discuti, non c'è quindi una struttura preconfezionata, ma tutto viene costruito assieme nel momento in cui ci si incontra, no? E sono giornate, in genere una settimana, intensissime, perché le discussioni vi assicuro non finiscono mai, ci sono dei momenti, ma pensatevi un ragazzo, uno studente di Tokyo che si incontra con uno che vive in Nepal o che vive in Finlandia o in Italia, non so, eccetera, è molto molto quindi ricca la comunicazione di esperienze comuni. Bene, uno degli argomenti che particolarmente che mi ha colpito durante questa settimana era stato proprio uno proposto da un gruppo di ragazzi, e il titolo era, proposto da studenti di queste scuole: qual è la nostra scuola ideale? Già, questa è una cosa che mi incuriosisce, perché mi ha incuriosito molto, perché ho pensato: santo cielo, se questi ragazzi e queste ragazze già vivono esperienze così, no? Diverse dal fatto di essere la campanella che suona alle 8 di mattina, che si entra, si fa un'ora, anzi 50 minuti, 45 di, non so, di lezione, poi subito un'altra ora, poi l'attenzione, l'interrogazione, la valutazione, la scheda, la non scheda, il compito, il non compito, la fine, la pagellina, la pagella, la scheda, l'incontro, bisogna, tutto sto marchingegno che fa parte della nostra scuola. Già questi che vivono queste esperienze così, diciamo, divergenti dalle nostre, possono addirittura pensare a loro volta di progettare una scuola ideale. Mi fa anche ben sperare, e questo mi è parso un segno estremamente interessante, perché significa il primo dato che questi ragazzi, evidentemente, nonostante vivano esperienze come queste, pensano, progettano, sognano, desiderano di migliorare dal loro punto di vista l'esperienza che stanno vivendo, e quindi certamente di non accontentarsi lo stesso di questo, di non sedersi, di non dire vivo in un mondo tutto ovattato, perché ovattato non è. Le caratteristiche, ecco, di queste emerse da questo seminario, da questo workshop su questo argomento, me le ricordo perché erano abbastanza significative. Per esempio, il bisogno, il desiderio che i genitori di loro, di questi ragazzi, condividessero fino in fondo con loro questa esperienza. Ci fossero, cioè, dei momenti nei quali fosse possibile, in maniera più allargata, più significativa, comunicare, parlare, confrontarsi su questi principi, su questa struttura, su questa organizzazione, potessero vivere all'interno della scuola, portare anche loro un contributo significativo. Oppure che la scuola diventasse il centro della vita del paese, della città, non un luogo marginale, non un luogo esterno alla città, non un luogo chiuso, appartato, recintato, ma che la scuola diventasse quasi un momento di sintesi di una vita che esiste fuori, che non ci fosse una frantumazione sulla nostra vita, quella che viviamo andando al cinema, stando con gli amici, facendo delle esperienze particolari, ascoltando la musica, nel caso vostro, leggendo un libro, facendo un'attività sportiva, non so, eccetera, un'attività lavorativa dei vostri genitori, degli amici che hanno già iniziato a lavorare, eccetera. E la scuola, un mondo chiuso a sé stante, dove asetticamente, quasi sotto una cappa di vetro, non si facesse contaminare in qualche maniera. No, la scuola doveva diventare, per loro dovrebbe diventare, il loro desiderio diventasse il centro della vita, cioè il luogo attraverso il quale passavano tutte le esperienze che c'erano, per poi ritornare fuori dalla scuola stessa, fuori dalle mura della scuola, per ampliarsi, per arricchirsi continuamente, per farsi contaminare, esattamente contaminare dalla vita e non per costruire una vita avulsa dalla realtà che ci circonda. E poi il desiderio che questo modello decisionale, vero, non finto, e cioè il fatto che tutti indistintamente, tutti in modo diretto, senza deleghe, potessero, possano decidere tutto ciò che riguarda la loro vita e la vita di coloro con i quali stanno assieme, fanno delle esperienze, vivono la loro giornata, potessero essere prese, assunte in questo modo e non come avviene nella realtà attraverso un processo di delega che noi sistematicamente facciamo, pensando che ci sia qualcuno che deve decidere per noi sulle questioni che poi in realtà sono le questioni vitali della nostra esistenza. Diciamo, c'è una tradizione che risale alla seconda metà, alla fine della seconda metà dell'Ottocento. Forse la prima scuola, ecco, la prima scuola nata, se potremmo oggi idealmente ricollegare a queste, naturalmente con la diversità di 150 anni, 120 anni di differenza, ovviamente che non sono passati in vano, probabilmente è la scuola fondata da uno che voi avete sentito sicuramente nominare, ma che bello che è questo coso. E che è noto per essere uno dei più grandi romanzieri del mondo finora esistiti, che si chiamava, e si chiama anche, è morto, ma insomma, mi piace, visto che continuiamo a leggere le pagine, a ricordarlo al presente, Tolstoi. Avete mai sentito parlare di Tolstoi, no? Il grande romanziere russo. Bene. Questo signore che viveva appunto in Russia, in un piccolo villaggio non lontano da Mosca, ma comunque neanche vicino, le distanze sono un po' diverse da quelle della Svizzera, per esempio, no? E decise un giorno, dopo aver fatto un lungo viaggio in Europa per vedere le scuole che esistevano a quell'epoca, alla fine dell'Ottocento, decise di fondare una scuola lui fatta così. Il primo esempio di scuole così libertarie, cioè fondate su questi rapporti egualitari tra adulti e bambini, tra avendo come attenzione tutte quelle caratteristiche che vi ho detto prima, grosso modo, può essere ricondotta alla sua particolare esperienza che Jasna Apolliana, lui fonda la prima scuola di questa. Poi come fanno? Per esempio il liceo autogestito di Oslo, che io ho visitato, è nato ai primissimi anni 60 da un gruppo di studenti, da un gruppo di genitori che, delusi dalla loro esperienza scolastica, dalla loro situazione e desiderosi di insomma, vivere un'esperienza più significativa per la loro vita, hanno fondato quello che è oggi questo liceo autogestito di Oslo, che quindi funziona già da 30 anni. La prima caratteristica di fatti che deve avere una scuola di questo tipo è una dimensione ridotta, questo è il primo concetto, no? Dipende, ci sono scuole che hanno fino a 300 studenti, anche, direi oltre difficile, e cioè, sono scuole che hanno 100, ne hanno 80, dipende, sono, come ti ho detto, un sistema così variegato, in paesi così diversi, non ha un modello. Però certamente il primo problema che poni tu è un problema verissimo, cioè quello del numero. Il numero è una variante significativa per l'esercizio della democrazia diretta. È chiaro questo? Quindi bisogna, capito? Però allora forse bisogna fare una prima riflessione, penso, cioè bisogna che noi nel costruire la società, la micro società, eccetera, teniamo sempre presente che probabilmente una società che permette una completa e vera e significativa espressione delle libertà individuali non può mai essere di numero esorbitante, perché a quel punto scatta il meccanismo della delega, no? E quindi l'esercizio della democrazia, della partecipazione, eccetera, comincia ad avere delle grosse difficoltà. Ma questa è anche una scelta, perché invece di fare una scuola grande di 1000 studenti, se ne possono fare 5 di insomma. Allora, qui ci sono alcune scuole che... allora, intanto bisogna vedere, dipende dai paesi. Tantissime di queste scuole sono scuole, tra virgolette, private, nel senso che sono pubbliche perché sono aperte a tutti, ma si sorreggono con finanziamenti privati, no? Quindi c'è una partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola in termini finanziari. Poi ci sono paesi che hanno una tradizione, la stessa Inghilterra per esempio, una tradizione di autonomia e di finanziamento di queste esperienze molto diversa da quella per esempio dell'Italia, che conosco meglio, cioè dove c'è un centro erogatore di sostanze e c'è un controllo. Negli stessi Stati Uniti, paese pieno di tutto, esattamente dell'opposto di tutto, ci sono quelle che si chiamano charter school, e cioè scuole che chiunque può fondare, purché abbia un progetto, ottiene dei finanziamenti e lo Stato o la Regione, dipende dal sistema amministrativo dei vari paesi naturalmente che cambia, si preoccupa solo di controllare che ci sia uno standard minimo riconosciuto, no? Con alcune caratteristiche riconosciute, ma poi la gestione, la vita interna, le modalità eccetera sono assolutamente libere. Ci sono adesso in questo momento due paesi al mondo che stanno avviando un percorso di democratizzazione, nel senso che ho detto prima, di queste delle scuole in forma sperimentale, e sono la Nuova Zelanda ed Israele. E una tradizione molto diffusa da questo punto di vista c'è anche in Danimarca. Chiaro, è una questione di scelte, è una questione di scelte che, ripeto, occorre fare, eccetera. Per quanto riguarda il diploma, come avviene la valutazione all'interno di queste scuole? Questa è una domanda interessante e che anche a me interessa, perché io lavoro in una scuola statale e stiamo cercando di importare all'interno della scuola, visto che questa è la mia realtà, alcune di queste caratteristiche, quelle che si riesce a concretamente a fare attraverso un percorso di maturazione delle persone che ci vivono, perché naturalmente se in una scuola, come la scuola dove lavoro io, ci sono 120 insegnanti che hanno idee completamente diverse, è chiaro, occorre andare per mediazioni continue, per discussioni, per ricerca, no? Mentre naturalmente tu capisci che in queste scuole le persone, grosso modo, sostanzialmente si sono cercate, gli insegnanti si sono cercati, hanno fatto una scelta di andare a fare un'esperienza di questo tipo, e quindi si parte già da un background minimo comune, dove si danno per scontate alcune cose, è più semplice partire. Bene, allora, la valutazione che come avviene? Faccio l'esempio della SENS, sembra che mi ricordo in questo momento, che anche stiamo cercando anche noi nelle scuole di impostare, stiamo iniziando ad impostare così il lavoro. Essendo queste scuole, questa scuola privata, alla fine del percorso scolastico gli studenti per ottenere il riconoscimento del diploma devono fare un esame esterno alla scuola, d'accordo? Per avere una certificazione standard riconosciuta dallo Stato, ovviamente, non devono fare un esame fuori, fanno fuori. Durante il percorso però, ecco, la prima cosa significativa è che non esiste un tempo codificato, non esistono delle classi per età all'interno delle scuole, perché naturalmente lo sviluppo del curriculum va ed è estremamente individuale e individualizzato, nel senso che uno può essere un ragazzo, una ragazza, può essere quello che potremmo definire il quarto anno in matematica ed essere il terzo anno faccio per spiegarvi, non è così rigido, ma capisci cosa voglio dire, in italiano piuttosto che in letteratura spagnola, inglese, non so, in chimica o quello che è, eccetera. La valutazione viene così: ogni periodo che viene deciso, naturalmente a cadenze anche lì fisse, ma fissate dall'insieme della scuola, parte sempre dal presupposto che tutto viene deciso assieme, e lo studente esprime su un foglio una valutazione sulla propria prestazione in ognuna delle discipline, non solo sull'acquisizione dei contenuti della disciplina, ma anche sul suo atteggiamento nei confronti della disciplina, atteggiamento inteso in senso lato, cioè sensibilità, interesse e motivazione anche, e impegno rispetto a che lui ha profuso nei confronti di quello studio di questa disciplina. Una volta fatta questa operazione, questa valutazione che il ragazzo fa viene confrontata con la valutazione che gli insegnanti nelle varie discipline hanno dato sempre nelle varie voci, ripeto, non solo nei contenuti, di ogni disciplina. C'è un terzo tra l'insegnante e lo studente, c'è un terzo che potremmo chiamare tutor per capirci, c'è una persona scelta dal ragazzo che vive all'interno della scuola, naturalmente ognuno ne ha un gruppo di ragazzi, no? Che assieme a lui, interloquendo, verificano le discrepanze o le analogie o le sfumature diverse tra la valutazione espressa dallo studente su se stesso e la valutazione espressa dall'insegnante. Ah, dimenticavo, naturalmente lo studente dà anche una valutazione sull'insegnante, cioè dà anche una valutazione, che so, il professor Francesco Codello tiene delle lezioni molto barbose perché parla troppo, naturalmente poi ognuno dà, la valutazione diventa sempre più sottile, più complessa con la maturazione dell'età. Chiaramente la valutazione che può dare un ragazzo di 11 anni è diversa da quella che può dare uno di 16, no? Ovviamente questo. E viceversa. E dal confronto tra queste due valutazioni nasce una sorta di, attraverso l'incontro con l'insegnante della disciplina approfondito, eccetera, di cui motiva il perché del suo giudizio nel caso sia negativo o anche positivo, individuano assieme con il lavoro di questo tutor, dell'insegnante delle discipline e il ragazzo, le difficoltà, le zone d'ombra, i progressi ottenuti, gli insuccessi segnati, eccetera, e assieme si danno degli obiettivi di miglioramento, decisi assieme. Quindi significa che si fa una sorta, chiamiamola così per usare una brutta parola, ma insomma in questo momento non me ne viene, una sorta di contratto tra i membri, tra gli studenti e gli insegnanti rispetto ad un percorso che si ritiene di dover fare. Basta. Poi per esempio ci sono altre forme, io ho visto proprio un mese fa a Vienna, una scuola democratica a Vienna, dove invece addirittura i ragazzi, questa è una scuola forse non mi ricordo più, arrivavano fino a 17 anni, circa 17 o 18 al massimo, ecco, dove di 4 anni, una scuola superiore, quindi di 4 anni, e dove nei primi 3 anni non c'era nessuna valutazione da parte degli insegnanti, ma ogni ragazzo, naturalmente servendosi dell'incontro, del confronto con gli insegnanti, eccetera, eccetera, faceva un suo rapporto e lui descriveva a fine anno che cosa aveva capito, che cosa non aveva capito, dove non, che cosa non era andato, cosa non era andato nella sua specifica disciplina. Solo il quarto anno avveniva una valutazione, sempre comunque poi confrontata reciprocamente. Ecco. Tutti questi meccanismi e mille altri che se ne potrebbero inventare, perché adesso voi non prendete, come vi ho detto prima all'inizio, queste cose come le uniche possibili. Cercate di prendere un po' ciò che sottintende a questa cosa, no? Cioè questo approccio diverso, questa partecipazione sempre e comunque attiva, diretta dei ragazzi alla vita della scuola, anche nella costruzione del sapere, no? Naturalmente ci possono essere 100.000 altre forme, che sicuramente se ne saranno altre che io non conosco, perché mica non le ho visitate tutte, perché non ne ho parlato con tutti, eccetera. E in Italia nessuna, e in Svizzera neanche. Ecco. Un mondo senza Svizzera e senza Italia. Ma magari può darsi che qualcuno di voi un giorno ne fondi una e sarebbe stati i primi. Perché? Prego? A livello come numero? Ah, no, ma il numero non te lo so dire. Posso dirti gli stati dove sono presenti? Allora, negli Stati Uniti tantissime. Arrivo subito. In Brasile ce ne sono, in Ecuador, in Canada, che conosco io, attenzione perché poi naturalmente. In Europa ce ne sono in paesi scandinavi, Belgio, Danimarca, Ungheria, Polonia. Quando dico Ungheria magari dico una o due in Ungheria, non dico sì, tanto bene. Polonia ce ne sono due o tre. In Spagna, poi dunque fammi pensare, in Russia, a Mosca, poi ci sono in India, come ho detto prima, in Nuova Zelanda, cioè, sì, ma sono assolutamente minoritarie rispetto al... Ah beh, certamente minoritarie, sì. Altrimenti ne avremmo sentito parlare anche di più. Perché a volte è necessaria una rappresentanza esterna, per esempio, oppure è necessario, se riconosciuto, qualcuno che a volte rappresenti la scuola in determinate situazioni, ma dal punto di vista della vita interna della scuola nessun rilievo particolare. Perché qui l'autorità deriva dall'autorevolezza che uno acquisisce, cioè dalla capacità riconosciuta, dalla competenza riconosciuta dagli altri e continuamente verificata e verificabile, e non da un'imposizione di ruoli precostituiti. Non è che non ci siano delle persone che hanno più influenza all'interno di queste scuole di altre, certo che ci sono, ma questa influenza è il risultato non di l'appartenenza ad un ruolo, e quindi del possesso di strumenti per poter imporre agli altri la propria opinione o la propria scelta, ma dalla capacità, dall'argomentazione, dall'esperienza, dalla competenza, dalla sensibilità che altri ti riconoscono. Questa è la differenza sostanziale. Se la cosa avviene partendo da piccoli, il percorso ha una garanzia di successo migliore. Però io credo che ci sia, però ci sono esperienze anche diverse. Succede che ci sono, per esempio, sempre la PARC, che cominciano da piccoli e poi in genere vanno alla SENS, frequentano la SENS, cioè l'età superiore dopo, no? Succede anche che ci sono ragazzi più grandi. Certo, certo, succede anche, ci sono una città, c'è una scuola che ha come fascia di età quella del liceo, insomma, a Oslo c'è solo quella, e quindi chi va lì, arriva lì, perché arriva a quell'età lì, grosso modo, no? Quella proprio da qui. Ci sono esperienze di tutti i tipi, non ce n'è proprio, non c'è niente di simile. Ecco, quello che pone lei è un problema vero, che con la cui risposta condivido quello che è stato detto dalla tua compagna dietro, no? È un po' il discorso, se vogliamo, dell'autodidatta, no? Cioè, chi è, se tu pensi le cose più significative nella tua vita che hai appreso, no? E quelle che poi probabilmente ti resteranno come più profonde della tua vita, sono quelle che sono quei tentativi di darti delle risposte a dei problemi che tu nel corso della vita hai incontrato. Quelle ti permettono una conoscenza profonda, perché tu dici: ho incontrato questo problema. Mi sono documentato, ho studiato, mi sono confrontato, ho ricercato, ho permesso alla conoscenza di sedimentare, di non essere bruciata, no? Ecco. Io invece dico che la scuola oggi è una scuola che prepara fortemente, questa scuola nostra è una scuola dell'ignoranza. Cioè, noi oggi abbiamo una scuola che, proprio per la sua struttura così frammentata, rigida, obbligante, è una scuola che prepara, che non prepara assolutamente i ragazzi ad affrontare la vita e soprattutto non dà loro delle conoscenze profonde e spendibili, dà delle nozioni a quelli più bravi e lungo il percorso naturalmente ne perde molti ancora, no? In Italia solo credo il 15% dei ragazzi si iscrivono, il 18% mi pare si iscrivono all'università, di quelli che finiscono la scuola superiore. E poi una gran parte si perdono per strada. La struttura della scuola oggi ha raggiunto dei livelli tali di frammentazione, di parcellizzazione, che riflettono un po' l'andamento della società esterna. Le lezioni diventano sempre più degli spot, dei bit che vengono messi all'interno, no? E non sono mai lezioni nelle quali con il tempo dovuto tu hai la possibilità di sviluppare un pensiero critico, di approfondire, di sviluppare tutto questo, no? Questo produce delle persone, dei ragazzi, delle ragazze, degli studenti, che sono fondamentalmente, e degli adulti quindi poi, sempre più ignoranti. Perché le conoscenze significative non vengono mai trasmesse, non c'è tempo, non c'è. È il modello un po' del consumo, anche la cultura viene consumata, le scuole assomigliano sempre più a dei supermercati, tu le scegli sulla base con l'ottica del cliente e ti fai attrarre da degli specchietti, sai come viene nei supermercati, no? 10 prodotti con prezzo basso per poter farti entrare e così poi tu compri anche 50 altre cose. Non a caso, la scuola, così come oggi, parliamo della scuola dei sistemi occidentali ovviamente, no? Non forma più la classe dirigente del paese viene formata in altri ambiti. Quindi se da un lato le conquiste di questi anni hanno portato a una scolarizzazione di massa, no, forte, per cui certamente rispetto a 100 anni fa il numero delle persone che frequentano la scuola è molto più elevato, è molto più trasversale alle classi sociali, no? Eccetera. D'altro canto però la scuola è stata messa nelle condizioni di svuotarsi sempre di più di contenuti significativi e soprattutto di abituare gli studenti a diventare dei perfetti consumatori, anche di conoscenze, più che delle persone che sono in grado di rielaborare un pensiero critico. La stessa frammentazione, per esempio, no, in iperspecializzazioni, porta ad una frattura nella conoscenza. Cioè, chi di voi oggi è in grado di leggere un fenomeno? Non può esistere una conoscenza limitata, parcellizzata ad un unico settore, se non c'è una capacità di farsi contaminare da tante discipline, da tante conoscenze che concorrono a dare un'idea, a dare una conoscenza anche in un settore molto semplice. Faccio un esempio, il medico per esempio, no? Quando un medico visita oggi ed ha assunto un livello di iperspecializzazione estremamente importante, ma non ha poi la capacità, la conoscenza di rispetto al proprio lavoro di problematizzare quello che sta facendo, dicendo, sapendo che gli sta di fronte una persona e che quindi quella patologia che lui ha dietro ha anche una storia, ha anche una serie di relazioni, ha anche una serie di intersezioni con ambiti disciplinari, eccetera. Cioè, questo è il sistema scolastico. Quindi io credo invece che questa scuola porti sempre di più lontano dalla conoscenza. E allora probabilmente, io non sto dicendo che questi siano i modelli in assoluto, naturalmente, però queste esperienze mi fanno pensare e mi fanno rivedere, diciamo, il meccanismo attraverso il quale dovrebbe avvenire l'apprendimento. Beh, innanzitutto, per esempio, non c'è insegnamento se non c'è apprendimento. La scuola è organizzata attorno alla logica dell'insegnamento, non dell'apprendimento. Cioè tutto è organizzato, i tempi, gli orari, le modalità, secondo i bisogni, le strategie, le strutture dell'insegnamento, cioè in questo caso dell'insegnante, non dello studente che apprende. Cioè viene privilegiato l'aspetto dell'insegnamento, se tu non apprendi sono problemi tuoi. Adesso estremizzo naturalmente, no? Per spiegare, non è proprio così, per fortuna non tutte le scuole, ci sono insegnanti bravissimi, ci sono persone che lavorano moltissimo, che capiscono questa cosa, però parliamo della scuola come macrosistema, non lo specifico. Quindi probabilmente invece queste esperienze scolastiche riconducono il sapere alla sua funzione essenziale, che è quella di liberazione del proprio essere, e non quella di, appunto, come diceva il testo, di qualche cosa. Cioè l'alunno, lo studente, non è come dice il titolo del libro, che non è una frase mia, non è né un vaso, cioè è qualcosa che si deve riempire, quindi la conoscenza non è quindi trasmissione solo, non è né modellamento secondo dei valori, dei principi che tu devi diventare qualche cosa altro che io società, io religione, io filosofia, io politica, insomma decido per te cosa tu devi diventare, ma invece è la capacità di tirar fuori quello che ognuno di noi dentro ha, far leva su questo profondo sviluppo, senso bisogno, sviluppo integrale della propria personalità e armonico, integrale vuol dire di tutte le proprie facoltà, di tutti gli aspetti della tua personalità, e armonico perché tra questi vari aspetti ci deve essere armonia, non ci può essere discrepanza, non ci può essere rottura, cioè la persona va ricondotta ad una sua unitarietà e specificità naturalmente. Ma gli esempi che abbiamo, che ho conosciuto, non mi danno questo dato che tu dai per scontato. E, nel senso che chi esce da queste scuole sono dei ragazzi assolutamente, tra virgolette, normali, che possono avere successo o insuccesso dal punto di vista anche personale, no? E, sicuramente però, almeno quelli che ho visto io, quindi perché non voglio assolutizzare nulla, quelli che ho visto io, questi ragazzi, ho visto delle persone straordinariamente mature, straordinariamente attive, straordinariamente autonome nel modo di vivere, di pensare, ecco. Ed anche che hanno acquisito questo senso profondo del sapere, della conoscenza, come proprio un bisogno di darsi delle risposte a dei problemi che si incontrano nel corso della vita. Cioè a questo punto, se tu non sei più obbligata a fare una determinata cosa, ma lo decidi tu, io credo che passi un salto di qualità, nel tuo modo di studiare, nel tuo modo. Certo è un percorso anche individuale, occorre fare fatica, per fare un percorso significativo in questa esperienza occorre fare fatica, forse anche di più di quella di starsene seduti ad ascoltare uno che parla e aver imparato a memoria, aver fatto la verifichetta, preso il bel voto, ecco. Sapendo però benissimo che il 99% di ciò che hai imparato dopo una settimana non te lo ricordi più, no? Mentre occorre fare anche fatica. Io non credo che questo modello, tra virgolette, di scuole sia un modello di disimpegno alla fatica, anzi credo che sia un modello di impegno, di stimolo alla fatica, però con il risultato, questo sicuramente sì, di produrre in te stesso un radicale cambiamento del tuo atteggiamento nei confronti della conoscenza e quindi della vita. Ecco. Che poi occorrerebbe estendere questa cosa a livelli più ampi, sono perfettamente d'accordo con te. Ecco. Però chiaramente diventa difficile perché chi governa i vari stati non ha, credo insomma di poterlo dire con molta tranquillità, non ha molto interesse che le persone ragionino con la propria testa, siano persone autonome, libere. È più facile avere appunto dei consumatori da poter spostare qui e lì a seconda delle necessità, anche con delle competenze specifiche, ma molto malleabili, molto adattabili in situazioni diverse e secondo piani e strategie di un mercato del lavoro a livello mondiale che certamente non sono vicine alle esigenze della persona, dell'individuo. Diciamo che non ha potere sullo studente. E quindi, secondo te? Tu vuoi sapere che motivazione ha l'insegnante a fare una cosa del genere? Ma io penso che se un insegnante si interroga fino in fondo veramente sul significato del proprio lavoro e certamente se uno dice io faccio l'impiegato della conoscenza, tanto sono pagato lo stesso, entro in una classe, parlo, poi non mi vuole mi ascolta, chi non mi vuole si legge il giornalino, non so, oppure non mi preoccupo, allora di cosa devo fare? Questo significa però che in tutti i lavori non c'è niente da fare se non cambia la testa questo, se non dà un senso diverso al proprio lavoro. Se invece uno vuol fare veramente il proprio lavoro da questo punto di vista, pensando che la sua diciamo funzione sia quella di far da specchio critico interlocutorio a delle persone che sta davanti e di sviluppare assieme a queste ulteriore conoscenza come sto facendo io cercando di rispondere alle vostre domande, chiaramente il mio approccio è completamente diverso. Certamente devono essere insegnanti che fanno una scelta di questo tipo, e cioè che non sono interessati ad affermare il loro potere, ma sono piuttosto interessati ad affermare il principio della libertà, dell'autonomia e della ricerca comune, dello scambio comune, perché queste persone, questi insegnanti, sicuramente imparano molto dai loro alunni, dai loro studenti e viceversa naturalmente, ma imparano sicuramente molto, perché se tu entri in una classe e sai che chi ti sta di fronte non può, può anche non stare lì. È chiaro che è diverso, insomma. E chiaramente se tutti quanti sempre non vengono, non stanno lì, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché apprendere, perché il bisogno di conoscenza è un bisogno fondamentale dell'essere umano, che noi possiamo verificare fin dal bambino appena nasce, insomma, no? Il bambino quando nasce non è tutta una ricerca di conoscere con le mani, con i sensi, con la bocca, con tutto, fino a che pian piano si sviluppa, e quindi vuol dire che la conoscenza è un bisogno dell'essere umano, altrettanto vitale e naturale come mangiare, come, no, coprirsi dal freddo, eccetera, insomma, no? Quindi anche la conoscenza. Quindi se questa conoscenza, come mai? Ecco, se voi prendete le scuole, che cosa succede? Che mano a mano che un bambino, ma anche nelle scuole nostre normali, da quando entra in prima scuola elementare, a quando comincia gli ultimi anni del liceo, il suo bisogno, la sua voglia, il suo desiderio di conoscenza si è progressivamente spento nel corso. Allora, come mai? Perché? Questo è il fallimento della scuola. La scuola da questo punto di vista è morta, ha fallito la sua missione, perché uccide progressivamente il bisogno di conoscenza. Non lo amplia, non lo esalta, non lo amplifica, parlo sempre in generale, naturalmente. Poi bisogna avere la fortuna, qui sì, la fortuna di incontrare degli adulti significativi, cioè dei veri maestri, non degli insegnanti, magari anche tecnicamente molto preparati, ma che non sanno immedesimarsi nel percorso, in modo empatico, nel percorso di sviluppo del ragazzo, della ragazza, che non sanno confrontarsi, che non rispettano in questo senso profondo, che non hanno voglia di imparare assieme ai loro studenti, che non hanno voglia di crescere, di confrontarsi assieme ai loro studenti. Cioè, dove sono trasmissori di conoscenza. A quel punto lì sì ha vinto la tecnologia. Cioè, basterebbero anche dei computer, insomma. Qual è il significato? Cioè, se io dovessi pensarmi come insegnante, per essere ridotto a fare quello che può fare benissimo una macchina, ma che senso ha? Dove cambierai mestiere? No, pensavo, ma questi insegnanti che praticamente gli allievi hanno questa possibilità, questo potere, diciamo, di rifiutare l'insegnante, no? Perché non è all'altezza, perché non è in grado di interessare, di dialogare con questi insegnanti. L'insegnante, cioè, è accettato o è rifiutato. Quindi, diciamo, un punto fondamentale di questa scuola è quello di che gli insegnanti, i maestri, sono dei veri maestri. Esatto. Esatto. Questa è la base. Direi di sì. Questa potrebbe essere la base di ogni scuola, no? Certamente. Se ci fosse questa selezione in tutte le scuole, forse avremmo... Certamente, avremmo già risolto molto. Però questo non è pensato, perché la società nostra è strutturata per professioni rigide, allora uno dice: io ho fatto l'università a Milano, mi sono laureato in, quindi io sono competente in questo, no? Qui saltano tutti questi meccanismi, perché a quel punto lì non basta più il possesso di un titolo di studio, non è più una garanzia, no? Sufficiente per poter essere, per svolgere bene, come intendiamo noi in questo momento, il proprio lavoro. Ma una riforma, per esempio, che potrebbe essere importante nella scuola, un primo passo, se non è solo facile, potrebbe essere quella di dare agli allievi appunto questa capacità, questa possibilità, questo voto, diciamo, nei confronti degli insegnanti. Ah sì, sicuramente. Questo potrebbe essere. Sicuramente. Qui bisogna uscire dalla logica adultocentrica, però. Bisogna uscire dalla logica adultocentrica, cioè che l'adulto sia il portatore della verità e il bambino sia appunto vaso, una creta, qualsiasi altra cosa, e non una persona a sé stante con la propria dignità, con la propria dignità, con il proprio rispetto, eccetera. Quindi questo è sicuramente un passaggio, sarebbe un passaggio già epocale. Certamente se tutto è relegato alla, almeno come avviene in Italia, adesso io non conosco come avviene nel Canton Ticino, in Italia esistono le graduatorie, penso che siano anche qua, per cui il futuro delle graduatorie, per cui tu accedi ad una graduatoria sulla base di punteggi accumulati dal titolo di studio, da un po' di esperienza documentata, eccetera, no? E la mattina che tocca a te, insomma, entri in quella classe, incontri quei ragazzi e poco importa che cosa tu produrrai, farai scaturire da quei ragazzi. Anche, potresti anche, cosa tra l'altro non neanche tanto così rara, distruggere completamente il loro bisogno, la loro voglia naturale di apprendere, perché sei un incapace, perché non hai voglia, perché semplicemente non hai quello il tuo mestiere. Io credo che fare l'insegnante sia una missione, cioè proprio un senso profondo del termine, come un po' tutti i lavori. Se tu non hai una motivazione profonda in quello che fai, se non sei convinto, se non lavori su te stesso continuamente per modificarti, per cambiare le cose, per ritararti, se non hai questa capacità empatica di rivisitare il tuo passato di ragazzo sistematicamente per capire chi ti sta davanti, non puoi fare l'insegnante, non puoi fare, devi cambiare mestiere. Però qui si va contro tutti, si va contro la rigidità sindacale che vuole una certa cosa, guai chi ti tocca la graduatoria, eccetera, eccetera, chi tocca... Io non credo, cioè, finché non... Questa sarebbe la prima grande rivoluzione, ma è una rivoluzione che non è nei programmi di nessun partito politico. In Italia ci sono appena state le elezioni, sapete, no? E in nessun partito politico delle 45 liste presentate per le elezioni conteneva anche semplicemente questa clausola, no? Tu entri nella parte relativa alla scuola, naturalmente, no? Tu entri in una scuola e non ci sei per... perché veramente sei capace di stabilire questo forte senso, no, di empatico, quindi sai fare questo lavoro, insomma, sai far crescere le persone, sei valutato su questo. D'altro canto, se voi pensate alle scuole, se noi domani mattina al liceo Cattaneo di Lugano decidessimo che il valore di riferimento fondamentale della scuola, da cui partire per organizzare la scuola, per fare la valutazione, per assumere le persone, non so, fosse invece di quello che esiste, fosse, che so, quello dell'educazione estetica, cambierebbe completamente tutta la struttura della scuola. Cioè dipende sempre dal punto di partenza. È chiaro, no? Dal punto di partenza di ciò che si ritiene fondamentale, da cui si fa discendere poi il tutto. Dipende dal valore di riferimento. Se il valore è la libertà, c'è una cosa. Se il valore è la costruzione, ce n'è un'altra. Se il valore è l'autonomia, ce n'è uno. Se il valore è della direzione forzata, ce n'è un altro. Cioè dipende tutto da lì, insomma, credo. Sì, nel libro ci sono, nel libro, nell'ultima parte, sono raccontate alcune di queste scuole che ho visto io, anche in maniera un po' più dettagliata, ma insomma, anche attraverso il filtro delle emozioni, non solo quello verbale che io oggi qui ho messo in campo, insomma, no? Perché quando si scrive si riesce magari a trasmettere anche qualche cosa che non si riesce a dire parlandone. Vorrei, se mi vuoi, approfitterei per leggervi il pensiero non mio, ma di un grande filosofo, chiamiamolo così, che si chiama Edgar Morin, che è un francese, proprio che potrebbe essere giusto per dire quello che abbiamo detto qua nell'ultima parte, quindi non è un pensiero mio, ma mi pare che potrebbe essere un'estrema sintesi molto significativa, e cioè il carattere funzionale dell'insegnamento porta, cioè concepire l'insegnamento come una funzione, no? Porta a ridurre l'insegnante ad un funzionario. Il carattere professionale dell'insegnamento porta a ridurre l'insegnante ad un esperto. L'insegnamento deve cessare di essere solo una funzione. una specializzazione, una professione, per ridiventare una visione di trasmissione di strategie per la vita. La trasmissione richiede evidentemente competenza, ma richiede anche una tecnica e un'arte. Richiede ciò che nessun manuale cita, ma che Platone sottolineava già come una condizione indispensabile a qualsiasi insegnamento, l'eros, cioè l'amore, che è un tempo desiderio, piacere e amore. Desiderio e piacere di trasmettere, amore per la conoscenza e amore per gli allievi. L'eros permette di superare il piacere che è inerente al potere, all'utile del piacere che è inerente al dono. Laddove non c'è amore, ci sono solo problemi di carriera, di salario per l'insegnante, di noia per l'allievo. La missione suppone, ben inteso, fede nella cultura e fede nella possibilità dello spirito umano. La missione è dunque elevata e difficile, perché suppone tempo, arte, fede e amore. Quindi proprio per ridefinire un momentino il ruolo dell'insegnante. Metteremo poi all'albo queste frasi di Morente. Se volete io posso lasciarvi anche un sito, se qualcuno di voi ha voglia di andare a vedere in giro per il mondo un po', perché è in inglese, ma sicuramente voi lo conoscete bene. E il sito da cui partire più facilmente per navigare proprio in questo mondo di esperienze alternative si chiama www.educationrevolution.org. Lì c'è una lista di scuole e di vari paesi del mondo, potete entrare, sbizzarrirvi e scoprire delle caratteristiche particolari. Ecco, allora chiudiamo qui, buonasera. Grazie, grazie a voi, buonasera. A cura di Progetto Radio Scatola Nera. Il nostro sito internet è www.scatolanera.ch.